Prima edizione. E 12 minuti, una notizia che arriva dagli Stati Uniti. La Camera dei rappresentanti americana, che è a maggioranza repubblicana, ha approvato un disegno di legge per l'estensione delle riduzioni fiscali in busta paga per la classe media. Era una richiesta sollecitata dalla Casa Bianca, ma ci potrebbe essere un veto del presidente Barack Obama, che ha collegato tutto questo all'approvazione di un progetto per la realizzazione di un controverso oleodotto in Canada. E in realtà chi dice no a questo oleodotto sono proprio i democratici, e quindi in sostanza potrebbe alla fine arrivare il veto di Obama oppure la bocciatura da parte dell'altra Camera americana. Noi ci fermiamo adesso e ci ritroviamo subito dopo per un breve quadro delle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono le 6, 15 minuti e 15 secondi. Adesso vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani italiani oggi, e iniziamo dal Sole 24 Ore. In apertura, come potrete ben immaginare, c'è la manovra, oltre a un dossier di 22 pagine per capire tutte le novità su manovra e su mercati. Il titolo principale è sconti ICI di 50 euro per ogni figlio, tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici a 300.000 euro e Monti che dice manovra più equa, e poi una tabella che spiega abbastanza nitidamente quali sono le principali novità arrivate con gli emendamenti. È dedicato al tema delle liberalizzazioni, evidentemente, e non solo naturalmente, l'editoriale di prima pagina di Fabrizio Forché. Il titolo è una rotta da non smarrire, l'occhiello, ossia quelle poche parole che sono scritte sopra ad un titolo, corporazioni e politica debole. Spalla, per così dire, quindi sulla destra del giornale, sulla destra del titolo principale, c'è il contratto unico della Fiat per tutti gli impianti, c'è l'accordo per Marchionne, una svolta storica, e un commento di Caro Dell'Aringa che parla della lezione del lingotto, quello scambio tra salari e produttività. A centropagina una notizia importante che viene data dal Sole 24 Ore, ossia che ci sono gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale, e monitoraggio FMI, arrivano gli ispettori, questo è il titolo, ma si parla anche di mercati, le borse falliscono in rimbalzo e lo spread BTP Bund risale a quota 461, la Fed lascia i tassi invariati. Barroso dice subito la crescita, il bond del Fondo Salva Stati raccoglie 2 miliardi. Questo il quadro dal Sole 24 Ore, nel quale si parla anche di cronaca, con il terrore a Firenze, l'uccisione di due uomini senegalesi e l'uomo che poi si è sparato, gesto tra razzismo e follia, e riporta all'interno anche un commento il Sole 24 Ore su questo. Il Corriere della Sera, l'apertura, pensioni, casa, rendite, ecco le novità, rivalutati gli assegni fino a 1.400 euro, sgravi sull'ICI per le famiglie con figli, liberalizzazione dal 2012 ma i taxi sono esclusi, Monti adesso c'è più equità. Commento è di Antonio Polito e si intitola Echi dalla palude, e inizia, giusto per darvi un'idea, con un bentornati in Italia. Anche qua una tabella con tutte le modifiche alla manovra, e un pezzo di Gian Antonio Stella che si intitola Sì, taglieremo i nostri costi, aperta parentesi, con calma, chiusa parentesi, e si parla dei politici e dei sacrifici. A centropagina, titolo forte naturalmente sulla vicenda di Firenze, fuoco sui senegalesi a Firenze, neofascista uccide due ambulanti e ne ferisce tre, commento di Marco Di Marisio, quel ragioniere dell'orrore. E poi, dal lato, scusate, ancora della manovra, c'è da segnalare le farmacie in rivolta, ora la serrata. Di taglio basso troviamo un pezzo di Dino Martirano sulla situazione delle carceri, fuori dal carcere 6 mesi prima, il decreto, si parla del piano cosiddetto svuota carceri, il decreto riguarderà 3.300 detenuti, la fine della pena ai domiciliari, e si parla anche del nuovo contratto per gli 86.000 dipendenti della Fiat. La Stampa. Apertura, manovra si cambia, salve le pensioni fino a 1400 euro, commento di Stefano Lepri dal titolo Adesso è più equa. E poi si parla di Fiat, c'è l'accordo su un contratto auto. Tra l'altro c'è un reportage a firma di Marco Alfieri, Pomigliano oggi riparte. Dopo 3 anni di cassa lo stabilimento Vico torna a vivere e aspetta la nuova Panda. Il titolo dedicato a Firenze, che ha comunque molta forza sulla prima pagina della Stampa, tutto questo perché c'è una foto quasi delle stesse dimensioni del titolo principale, quello sulla manovra. Furia razzista, 2 morti a Firenze, questo il titolo. E il commento di Gianni Riotta è: con la crisi tornano i veleni peggiori. E poi si parla anche dell'assalto a Liegi, granate, spari e strage al mercatino. Da segnalare anche un titolo su Italo, il nuovo treno, il treno rosso di NTV, che da marzo viaggerà a 360 km l'ora. Napolitano che dice: esempio di innovazione. La Repubblica, apertura, sconto ICI patrimoniale sui titoli, pensioni protette fino a 1400 euro, scudo, tassa più pesante, liberalizzazioni, rivolta di taxi e farmacie. I due commenti di prima pagina sono a firma di Barbara Spinelli, che si intitola Se l'Europa si scopre mortale, e poi di Alessandro De Nicola, Il presidente e la linea del Piave. Centropagina, la foto su quello che è successo a Firenze, terrore a Firenze, killer neofascista uccide 2 senegalesi, poi si spara, gli immigrati in corteo, Napolitano che dice no alla xenofobia, Adriano Sofri commenta qua: non chiamiamo pazzi i nostri Breivik, naturalmente il riferimento, come avrete capito, è al killer di Oslo. Titolo forte anche per il TG1 sulla Repubblica, il CDA della Rai rimuove Minzolini, lui attacca, scelta immotivata, Maccari diventa direttore, il commento a firma di Giovanni Valentini è: uno scandalo risolto dentro la TV malata. Vi segnaliamo anche qua dalla Repubblica un pezzo di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, il perché dobbiamo fidarci del biologico in cucina, segue naturalmente quell'operazione della quale anche vi abbiamo raccontato, della scoperta dell'operazione cosiddetta Gatto con gli stivali, un'operazione di polizia che ha portato alla scoperta di una grandissima truffa nel biologico che riguardava circa il 10% del mercato del biologico italiano. Repubblica riporta anche quella che supponiamo essere quella che è un'intervista alla ragazza che ha provocato a Torino la vendetta, per così dire, contro il campo Rom, dicendo di essere stata stuprata da 2 Rom, fatto che poi si è rivelato non essere vero. Torino parla alla ragazza: le mie bugie sullo stupro. Il Messaggero, apertura ai ICI e pensioni, ecco le novità, sconti sulla casa per i figli a carico, Monti ora la manovra più equa. Da segnalare il commento in prima pagina, e molti editorialisti si soffermano su questo tema oggi, lobby e mercato, quel muro che frena ancora la crescita, a firma di Gianmaria Grosspietro. Ci sono i dettagli sulle misure ovviamente, però il Messaggero decide di dedicare anche un altro titolo alla manovra, liberalizzazioni esclusi, taxi, le farmacie pronte alla serrata, e poi slitta l'abolizione delle province, tutto questo a centropagina. C'è anche una grande foto dedicata a quello che è successo a Firenze, poi ne parleremo più avanti e sentiremo alcune voci dalla giornata di ieri, commento in prima pagina di Sergio Givone dove porta la follia razzista, e poi storie romane, quella del poliziotto che ha rapito un 15enne ed era dice rovinato dai debiti di gioco, come sapete è stato, se avete seguito la vicenda di cronaca di ieri, è stato liberato subito poi il 15enne, poi i problemi della Roma Calcio, rimpasto americano per la Roma, tensione tra i soci e Di Benedetto. Un'occhiata molto molto rapida ad alcune delle prime pagine soprattutto economiche degli altri quotidiani, dai siti, in realtà dalle home page dei siti. Il Wall Street Journal titola parlando dell'euro, che tocca il minimo da 11 mesi e quindi un segnale di debolezza per quanto riguarda l'economia europea e i dubbi sugli sforzi per contenere la crisi del debito, e anche il Financial Times sceglie naturalmente di titolare sulle vicende che riguardano l'Europa e i timori dei mercati per quanto riguarda appunto proprio la crisi del debito. È interessante l'apertura dell'home page di Le Monde perché parla delle economie cosiddette emergenti. Il titolo è Economie emergenti, la festa è già finita, e si parla dei BRICS, i cosiddetti BRICS, Brasile, Russia, India e Cina, dicendo insomma non è che la crescita sta già diminuendo, che questi paesi avranno problemi. È esattamente di questo che ci occupiamo ora. Perché ce ne occupiamo? Abbiamo dedicato ampio spazio nei giorni scorsi alla situazione economica europea e italiana, e poi tra l'altro tra un attimo torneremo a fare il punto, perché vi faremo il punto misura per misura della manovra. Adesso vogliamo parlare di Cina, perché si è conclusa un importante 3 giorni di riunione economica del Partito Comunista, dalla quale appunto si attendono come sempre indicazioni. Allora saluto Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, dal lato, innanzitutto che cosa ne è emerso soprattutto dal lato della crescita, poi verremo anche ai temi più strettamente europei, alla visione che ha in questo momento la Cina dell'Europa e delle famose ipotesi di aiuto delle quali tanto si è parlato. Però prima vorrei capire che cosa è emerso dal lato delle preoccupazioni per la crescita, che sembrano investire una serie di commentatori economici. Per quanto riguarda la Cina, che cosa è uscito da là? 5 punti. Primo, l'economia cinese è in una fase di notevole rallentamento. Non ci possiamo aspettare nulla di drammatico da questa riunione, perché la Cina è in un periodo di transizione, l'anno prossimo la nuova leadership prenderà il controllo, per cui questa leadership non farà niente di drammatico. Sicuramente saranno abbassate le tasse sulle persone, ossia sarà aumentata la soglia di esenzione, abbassata l'IRPEF e abbassata l'IVA per incrementare i consumi. Il piano di stimolo massiccio fatto nel 2008 non è ripetibile, ha generato inflazione e ha generato molto spreco negli investimenti. Rimane solo un dubbio, che è: spingiamo la casa o rallentiamo la costruzione di case? Questo è il dilemma attuale, non uscirà una decisione. Il dilemma sta nel fatto che se si spinge la casa, l'economia va, perché la casa è il 30% dell'economia, però si crea la bubble finanziaria. Se aumentano i prezzi e i cittadini sono scontenti, ma l'economia va. E quando... Se si frena la casa, l'economia rallenta, la casa rimane abbordabile, la situazione sociale è più tranquilla. Questo è il dilemma tra cui ci si dibatte, ma questo plenum non farà nulla di drammatico, terrà la politica attuale, che è una politica di calmierare il prezzo delle case anche pagando qualche punto in meno di crescita. Forchielli, quando si parla di 5 punti percentuali in meno, che è quello con cui abbiamo aperto la nostra diretta, che cosa si intende? Di crescita? 5 punti percentuali in meno, l'ho detto io? Sì, 5 punti in meno ho sentito all'inizio della diretta. Adesso ho detto 5 punti meno. Sì, no, sì, direi sì. Che la crescita ormai scende dal double digit, da 11 così a 8. E 8 è la crescita minima sostenibile. Benissimo. In Cina. Benissimo. Adesso non mi ricordo aver detto 5 punti. Allora. Ho detto che avevo 5 punti da dire, non 5 punti di crescita. Okay, perfetto, ecco, perfetto. Perfetto, allora la questione dell'Europa invece, eventuali aiuti all'Europa, vorrei venire a questo. Che... Sicuramente verranno, sicuramente li vogliono dare, nonostante una forte opposizione interna dell'opinione pubblica. Il fatto... Anche loro, come i tedeschi. Sì,

Le 6:40 minuti e 27 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque andiamo alla cronaca della giornata di ieri a Firenze. La vicenda qual è? Ormai la conoscete tutti naturalmente. Un uomo di 50 anni, Gianluca Casseri, frequentazioni nella destra estrema e razzista, ha aperto il fuoco contro, in due episodi diversi, contro due gruppi di senegalesi, e sono morte due persone, c'è un ferito grave. Le vittime: Samb Modou di 40 anni e Diop Mor di 54 anni. Questo è quello che è successo in una giornata di follia e di razzismo ieri a Firenze. Sentiamo qualche testimonianza alla giornata di ieri, a partire da quella al microfono di Ubaldo Cianciulli, di un ragazzo senegalese che poi un gruppo di senegalesi è sceso in piazza per protestare. Sentiamo. Lui l'ha fatto a posto, secondo me. Lui non è malato, una persona malata. Quando ammassa tutte le generazioni, ma lui ha ammassato solo senegalesi. Ora c'è qualcosa dentro, secondo me. Questa è la mia opinione. No, questa è la... Sai, qui in Italia il problema, quando massano stranieri, subito dicono lui è pazzo. E sempre Ubaldo Cianciulli ha intervistato il prefetto di Firenze, Paolo Padoin, subito dopo l'incontro con la comunità senegalese. Non è stato un momento difficile, anzi c'è stata molta comprensione da una parte e dall'altra. È stato un incontro molto significativo perché c'erano il presidente Rossi e il sindaco, e quindi tutte le istituzioni fiorentine e toscane che hanno recepito il grido di dolore della comunità senegalese, hanno espresso la loro solidarietà e il loro appoggio. Che tipo di messaggio ha lanciato la comunità? La comunità ha lanciato un tipo di messaggio molto pacifico, chiedono di essere ascoltati, ma li abbiamo sempre ascoltati quando hanno avuto necessità di rappresentare le loro esigenze. Anche da parte delle istituzioni locali c'è stata espressa dal sindaco e dal presidente della regione la massima disponibilità ad intervenire per venire incontro alle loro necessità. Ma diciamo che voglio fare i complimenti per come si sono comportati pur nel momento della reazione. Hanno detto alle loro comunità, quando sono scesi, che il nostro messaggio era quello di stare tranquilli e di non continuare la loro riunione qua sotto, perché stavano arrivando altri individui che non avrebbero manifestato la loro solidarietà in modo molto spontaneo, ma anzi cercando di strumentalizzare la loro situazione. Hanno capito perfettamente e se ne sono andati. Così il prefetto di Firenze Paolo Padoin, intervistato da Ubaldo Cianciulli. Ora la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per parlare di manovra. Prima edizione. 6:45 minuti e 44 secondi, così come ieri con Adriana Fracchia facciamo il punto sulle ultime della manovra. Adriana, buongiorno. Buongiorno a te Simone, a tutti gli ascoltatori. Sì, dopo giorni di incontri tecnici e contatti tra esecutivo e partiti sono stati sciolti i nodi del decreto e apportati correttivi sui capitoli più delicati. Vediamo in dettaglio, a partire dal capitolo pensioni. Le pensioni fino a 1.400 euro circa, quelle tre volte il trattamento minimo, vengono escluse dal blocco di rivalutazione nel 2012, e poi in arrivo un contributo di solidarietà del 15% per le pensioni oltre i 200.000 euro. Per quanto riguarda l'IMU, la detrazione per il pagamento sulla prima casa aumenta di 50 euro per ciascun figlio sotto i 26 anni, così l'importo complessivo non può superare il tetto di 400 euro. Per quanto attiene invece i capitali scudati, saranno soggetti ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per 1000. Per il 2012 e il 2013 l'aliquota stabilita nella misura del 10 per 1000. Parliamo poi di patrimoniale. Scatta un'imposta pari allo 0,76% sul valore degli immobili all'estero e destinati a qualsiasi uso dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ed è istituita invece un'imposta dell'1 per 1000 annuo per il 2011 e 2012 e dell'1,5 per 1000 decorrere dal 2013 sul valore delle attività finanziarie detenute sempre all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Poi viene fissato un tetto dell'1,5% sulle commissioni a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse le carte di pagamento, mentre i pagamenti in contanti da parte della pubblica amministrazione, comprese le pensioni fino a 1.000 euro, appunto, saranno fatti appunto in contanti, quindi tranquillizziamo gli anziani pensionati. Per le aziende in crisi, 72 mesi di tempo in più per pagare le cartelle ad Equitalia, alle aziende in difficoltà a causa della crisi economica. Ci sarà poi una stretta sui compensi dei manager pubblici e per quanto riguarda le province, gli organi provinciali in carica decadranno in scadenza naturale non più entro il 31 marzo del 2013. Infine, per quanto riguarda il capitolo liberalizzazioni delle attività economiche, queste scatteranno dal 2012 come previsto inizialmente, sono però esclusi dalle liberalizzazioni i taxi. Grazie, grazie dunque Adriana Fracchia, e noi adesso chiudiamo parlando di musica. Meglio di spettacolo, Adriano Celentano sarà ospite della 62esima edizione del Festival di Sanremo, lo ha annunciato il direttore artistico Gianmarco Mazzi. Marta Cagnola ha intervistato chi guiderà le danze, o meglio i canti, ossia Gianni Morandi. Rivedere quel festival, rivedere quelle immagini è stato molto un momento intenso, perché mi sono accorto di come è stato bello, come è stato, poi ci avevamo lavorato tanto, e poi il fatto che siano rimaste delle canzoni e che la gente le canti ancora, questo mi fa piacere, insomma. Ma l'emozione più grande penso che sia arrivata proprio con la sorpresa finale, Adriano Celentano che viene a Sanremo. Il bello è che io non sapevo niente, che l'avevo invitato l'anno scorso, non era voluto venire, e che comunque lo conosco da una vita, ma insomma non avrei mai immaginato che avrebbe accettato di salire sul palco di Sanremo. Sono state scritte centinaia, migliaia di canzoni, è sempre più difficile portare qualcosa di nuovo, è una ricerca continua, sperando di trovare il nuovo Vasco Rossi per quello che riguarda i giovani, ma per quello che riguarda gli artisti big, insomma, la qualità, cercare di mantenere alta la tradizione di Sanremo, perché da lì sono uscite canzoni che poi erano fatte in giro del mondo. Le case discografiche non hanno più il monopolio della musica, voi andate a cercare anche altrove, è una cosa importante. Sì, beh, dobbiamo cercare dappertutto, ci sono molti artisti che non hanno casa discografica, ci sono artisti che comunque hanno una storia, che però siccome oggi i dischi si vendono sempre di meno, magari non hanno contratti, non riescono a farsi aiutare da delle multinazionali, quindi noi ascoltiamo anche loro. Ma stiamo uniti, lo diciamo ancora? Siamo uniti, dobbiamo continuare a dirlo, perché a me piace comunque il gioco di squadra, magari con altre parole, vediamo se ci viene un'altra idea. Quella è una... è una battuta che è nata per caso, mi auguro che per caso ne nasca una altrettanto forte. Ed è veramente tutto, un ringraziamento a Viola Bottone in redazione, Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.